America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Super Bowl, beh, la finale, la grande finale, la 51esima finale hanno vinto i Patriots del New England ed è stata davvero quella di ieri una partita storica sotto ogni punto di vista. Intanto è stata la prima partita che è dovuta arrivare, la prima finale del Super Bowl, che è la finale ovviamente del football americano, che è dovuta arrivare ai supplementari, non era mai successo prima. Non solo, Tom Brady, grande leggenda, il quarterback, il regista, diventa il primo regista nella storia del football che conquista anche lui 5 titoli, ma soprattutto è stata una partita incredibile perché a un certo punto il New England era sotto di 20 punti nell'ultimo quarto di tempo, non so se si gioca in 4 tempi, non in 2 tempi, quindi nell'ultimo quarto erano sotto di 20 punti, sono riusciti a recuperare, sono andati ai supplementari e ai supplementari alla fine hanno vinto 34-28. Ecco il halftime show, non so se l'avete riconosciuta, ma è Lady Gaga. Pensate che è arrivata dal tetto in volo, ovviamente è stata calata da un sistema di cavi, ma sembravano cavi invisibili, e dunque si vedeva Lady Gaga che così volava a fare spettacolo e poi ha cantato i suoi principali successi. Ecco, vi dicevo che ci sono 100 milioni di persone, di spettatori che in qualche modo hanno dimenticato per un momento le lotte di potere a Washington, le battaglie fra Donald Trump, un sistema giudiziario che così cerca di decidere in modo imparziale, ma naturalmente non può venire tagliato fuori dalla politica. Ma cosa succede? Che in qualche modo un messaggio politico è rientrato attraverso gli spot pubblicitari, perché gli spot pubblicitari sono centrali di nuovo in questo spettacolo del Super Bowl. Gli spot costano carissimi, milioni e milioni di dollari per pochi secondi. In realtà lo spettacolo di metà partita dell'intervallo appartiene e gestito dalla Pepsi-Cola, ma la Coca-Cola naturalmente si è comprata uno spot e si è focalizzata sulle differenze che non dividono ma danno forza all'America. Il messaggio della Coca-Cola è Together is beautiful e mostra immagini di persone di razze diverse, di religioni diverse, tutti insieme. Ecco, questo stesso tema è stato ripreso da R&B. Il messaggio è: non importa chi sei, da dove vieni, chi ami o che Dio adori, noi tutti apparteniamo. Il mondo è più bello più si accetta. Ecco, questo hashtag alla fine del We Accept è diventato uno dei più condivisi e questo ci porta al tema politico del giorno, cioè al giudice che ha bloccato l'ordine esecutivo di Trump, o meglio alla corte di appello, perché c'è stato un percorso. Donald Trump a un certo punto aveva fatto una domanda, aveva fatto una richiesta venerdì perché fosse rimosso il blocco al suo ordine esecutivo e un giudice di Seattle, James Robert, ha bloccato l'ordine, ha confermato il fermo dell'ordine di Donald Trump, consentendo a tutti coloro che arrivano da questi 7 paesi islamici che erano stati messi in lista nera di continuare a venire negli Stati Uniti. Ebbene, immediatamente il Dipartimento della Giustizia su ordine di Trump si è rivolto alla Corte d'Appello del Nono Circuito di San Francisco nel giro di poche ore la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di Robert a Seattle, cosa devo dire abbastanza straordinaria anche per la rapidità con cui questa decisione è stata presa. Il Dipartimento della Giustizia e Trump potranno fare ricorso adesso nel giro di poche ore e vedremo come andrà a finire. Ecco, devo dire però che la sensazione è che questa battaglia sarà una battaglia durissima che continuerà. Tra l'altro Donald Trump è stato molto offensivo nei confronti del giudice Robert, ha detto: ma l'opinione di questo giudice allontana la legge dal nostro paese, è un'opinione ridicola e va ribaltata. Ecco, non succede che un presidente degli Stati Uniti attacchi un giudice, la separazione dei poteri negli Stati Uniti è molto forte, ognuno svolge il suo ruolo, Donald Trump dovrà in qualche modo abituarsi a questo, ma evidentemente ancora non si è abituato. La mia sensazione è che si andrà avanti in una battaglia politico-legale, che di nuovo nella grande tradizione della separazione dei poteri americani, probabilmente finirà per andare in appello fino alla Corte Suprema. Ci sarebbero degli altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Donald Trump e la legge, e guardiamo oltre, ormai del Super Bowl abbiamo parlato, e dunque vi propongo dei Clash, I Fought the Law, ho sfidato la legge. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!